Radio 24 Reportage. Congo, il voto fragile, di Giampaolo Musumeci. Il duello tra Joseph Kabila, presidente uscente, e Etienne Tshisekedi, candidato alla presidenza della Repubblica Democratica del Congo, ha infiammato il dibattito elettorale e la campagna. Etienne Tshisekedi, storico oppositore di Mobutu, 79 anni, qui vissuto come uomo integro tutto d'un pezzo, è stato il peggior incubo per Kabila negli ultimi 3 mesi. Una tornata elettorale questa segnata da violenze in tutto il paese. Kinshasa ha registrato, secondo il rapporto Human Rights Watch, almeno 18 morti e un centinaio di feriti. La Guardia Repubblicana, che non avrebbe dovuto essere schierata da Kabila, ha gestito l'ordine pubblico assieme alla polizia in maniera dura e allo stesso tempo poco efficace. Nous sommes en train de réserver une attache à la ré. Nelle manifestazioni precedenti il voto di lunedì 28 novembre, infatti, è stato sparato in aria, ma anche ad altezza d'uomo. La CENI, la Commissione Elettorale Indipendente, è stata criticatissima. Il pastore Ngoy Mulunda, il suo presidente, è un uomo vicino a Kabila. La gestione dell'intero processo elettorale è stato assai discusso e criticato. L'ombra della frode ha aleggiato su questo appuntamento. Io stesso, girando per i seggi nel centro di compilazione di Kinshasa, dove si è effettuato il conteggio, ho potuto verificare la gestione totalmente caotica del conteggio, cumuli di schede spesso lasciate all'aperto, verbali di seggio non protetti. Il giorno del voto migliaia di persone non trovavano il loro seggio. Un voto fragile, quello congolese, minato dalle violenze, dalla credibilità dei risultati, dagli interessi internazionali che pesano come macigni. Donatella Rostagno, analista politico per la rete di ONG EURAC, che ha guidato una missione qui a Kinshasa, è stato fra i pochi a puntare il dito sulle cose che non hanno funzionato. Liste incomplete nei seggi, caos, mancata messa in sicurezza del materiale elettorale, scarsa organizzazione. I risultati che noi abbiamo dai nostri osservatori per quanto riguarda l'osservazione che abbiamo potuto fare nelle 11 province, è che ci sono delle province in cui il voto è andato bene, nel senso che i seggi hanno aperto, c'era il materiale elettorale e c'erano anche gli elettori che hanno potuto quindi votare. Purtroppo ci sono delle province in cui tutto questo non è successo, nel senso che i seggi hanno aperto molto in ritardo e ce ne sono anche che non hanno mai aperto, oppure ci sono dei seggi che hanno aperto 3 giorni dopo il giorno del voto, il 28 novembre, e in questi seggi è stato un caos totale, nel senso che il materiale non è mai arrivato, è arrivato solo in parte, quindi non c'erano abbastanza schede elettorali per far votare tutti. Diamo un voto alla CENI, da 1 a 10. Io credo, per l'impegno di alcuni membri della CENI, possiamo dare anche 8. Per la testardaggine direi 4, perché potevano probabilmente, aspettando un po' di tempo, organizzare delle elezioni in modo più corretto. E quindi direi, per l'organizzazione, starei sul 4. Quanto le irregolarità registrate inficiano la legittimità di questo voto? Ma ripeto, il problema è che bisogna capire che percentuale di irregolarità, e questo in questo momento è un po' difficile da sapere. E alla recente conferenza stampa dell'Unione Europea sono stati lanciati messaggi in punta di penna, nessuno si sbilancia. Da quello che ho visto, voi siete stati più netti, più categorici nel spiegare, insomma, che cosa non era funzionato, quindi c'è moltissima attenzione. Perché l'Unione Europea è così attenta e parla così sottovoce? Quali sono i timori? Io credo che i loro timori siano dati dal fatto che gran parte della popolazione congolese identifica nella comunità internazionale il colpevole della messa di Kabila al potere, e continuiamo a sentire molte di queste cose, le dicono tra l'altro anche a noi, perché poi per i congolesi far differenza tra l'Unione Europea e delle ONG europee, in fondo per loro non c'è grande differenza. Noi cerchiamo poi di spiegare chi siamo e che tipo di lavoro facciamo, e a volte li convinciamo, a volte no. C'è un grandissimo rischio in queste missioni di osservazione, è che se non si punta il dito su quello che di sbagliato accade, si finisce per legittimare il risultato, qualsiasi esso sia. Tu questo rischio lo vedi o...? È chiaro che c'è un rischio, nel senso che quando tu invii una missione d'osservazione elettorale in un paese come il Congo, poi, che è un paese enorme, si sa che il Congo è praticamente la grandezza dell'Europa occidentale ed è un paese con una mancanza di infrastrutture, tutto quello che sappiamo, quindi insomma questo è importante da tenere in conto. Quando si invia una missione d'osservazione elettorale in un paese come il Congo, si sa che i seggi che si riesce a coprire sono poi alla fine una parte, ed è il motivo per cui noi lavoriamo in cooperazione con le ONG congolesi, perché si cerca comunque. Noi abbiamo nelle nostre statistiche, abbiamo visto che noi siamo riusciti a coprire il 25% dei seggi del paese, che comunque non è male rispetto, però è il 25%. Io credo infatti che poi quando si tirano le conclusioni di un'osservazione bisogna essere in grado di dire quello che è andato bene e quali sono effettivamente in che maniera queste elezioni hanno fatto avanzare il paese. Ma è chiaro che bisogna dire quello che non è andato bene. Nel 2012 ci saranno ancora le elezioni provinciali e poi le locali, quindi insomma io credo che sia importante parlarne di tutte queste cose. Infatti l'obiettivo del rapporto e della comunicazione non è quello di incolpare, in parte a volte sì, ma insomma non è di dare delle colpe, ma identificare quelle aree, quelle categorie che possono essere migliorate, insomma. Un ruolo fondamentale in questa campagna è stato giocato dalle radio e dalle televisioni. Francesca Boggeri è analista dei media congolesi nell'ambito della missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea. Ha studiato il ruolo giocato da TV, radio e quotidiani nella tornata elettorale. A lei un primo giudizio del panorama mediatico in Congo. Il panorama congolese è un panorama fortemente politicizzato e stiamo monitorando 11 media, radio, televisione e giornali, e ognuno di questi ha una appartenenza politica che influenza la copertura, che ha influenzato per tutta la campagna la copertura dei data ai differenti candidati, sia le legislative che le presidenziali, e questo ha creato un bipolarismo soprattutto sulla stampa. Per esempio abbiamo notato un bipolarismo tra il PPRD e il DPS, erano i soli due partiti politici che si sono imposti a livello mediatico, e questo per quanto riguarda la stampa. Per quanto riguarda la televisione, i candidati presidenziali hanno scelto la televisione come media dove acquistare la maggior parte dei loro spot pubblicitari, che era una quantità enorme e senza alcuna regolamentazione, e dove ovviamente il candidato presidenziale Kabila ha avuto un enorme vantaggio sugli altri. Quanto una comunicazione di questo tipo influenza l'elettorato congolese? Cioè quanto sono sensibili i congolesi alla comunicazione dei media? Qui siamo in una città dove funziona tantissimo il rumore, dove funziona il passaparola, dove funziona il sentito dire, e quanto invece appunto accendere la TV, accendere la radio diventa potente, diventa efficace? Beh, sicuramente la televisione è limitata ai centri urbani, a Lubumbashi, a Kinshasa, e a Lubumbashi e a Kinshasa ha avuto un fortissimo eco, una fortissima influenza sull'elettorato. La radio chiaramente è il mezzo ancora più diffuso a livello delle province, e i giornali sono assolutamente, hanno un impatto limitatissimo sulla popolazione congolese, solamente sugli intellettuali, sulla classe politica. Il medium che si è distinto è sicuramente Radio Capi della fondazione della MONUSCO, creata alla MONUSCO, la fondazione Rondel, che ha soprattutto la cosa più positiva, che ha diffuso nelle missioni dall'inizio della campagna dei messaggi di educazione agli elettori, come votare, dove votare, ed è stato veramente l'unico medium che ha rispettato e che ha garantito questo aspetto di informazione all'elettorato. L'altro che abbiamo notato è la televisione, la radio Top Congo, che nelle missioni giornaliere di informazioni ha cercato di fare uno sforzo, ed è l'unica radio che non appartiene ad un candidato presidenziale, e quindi noi abbiamo nel nostro rapporto rimarcato questo sforzo che in un paese così complesso e fortemente politicizzato, direttamente o indirettamente, è stato uno sforzo che ho voluto sottolineare nel nostro rapporto. Qual è la ricetta della radio, della TV congolese? Cioè su cosa fanno leva? Su quali armi giocano? Funziona chi urla di più? Funziona lo spot più lungo con la musica più alta? Abbiamo visto effettivamente che è stata una campagna iniziata timida, una timida campagna che si è riscaldata durante la fine delle ultime settimane, e anche a livello di spot pubblicitari sono stati iniziati gli spot pubblicitari piuttosto violenti, una risposta e controrisposta, una risposta iniziata da Tshisekedi, controrisposta di Kabila, degli spot di animazione ma piuttosto aggressivi, piuttosto violenti. Anche il discorso di Tshisekedi, che con il quale si è imposto su tutti i media del paese in un sol colpo, è stato un discorso violento, è stato un discorso che abbiamo abbiamo giudicato violento contro gli articoli della Costituzione, contro gli articoli del Sestac, l'organismo che si occupa di regolazione dei media, però lui con questo discorso si è imposto anche a livello delle province come il secondo candidato presidenziale credibile. Nel suo discorso Etienne Tshisekedi si era autoproclamato presidente e aveva invitato i suoi sostenitori a saltare le prigioni per liberare i supporter, che lui chiama combattenti, imprigionati da Kabila. Sullo sfondo di queste elezioni il Congo, le sue ricchezze, la sua povertà diffusa, i suoi lenti apparati amministrativi, l'assenza di strade, di collegamenti, di sanità pubblica, spesso di acqua ed elettricità, le pressioni delle grandi potenze internazionali, prima fra tutte la Cina, che da anni ha sedotto Kabila con offerte irrinunciabili e ora si occupa di miniere e infrastrutture. Un congolese l'altra mattina, prima dei risultati definitivi, mi ha detto: «Il Congo ha bisogno di cambiamento», anche se questo richiederà tanto tempo. Cambiamento, la parola d'ordine per il Congo del presente e del futuro, nonostante il fragile voto.